Eccoci a Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. 87.9 la modulazione di frequenza, potete ascoltarci in diretta, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione in generale le trovate sul sito della radio, alla voce trasmissioni visionari, sulla colonna centrale dell'home page, oppure sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. E che altro dire, che questa radio va avanti dal 1977, libera da padroni e pubblicità. Per sostenerla potete sottoscrivere sul numero di conto corrente postale 6180 4001, e poi potete sottoscrivere anche attraverso metodi telematici, perché sull'home page del sito c'è l'opzione sottoscrivi per tutte le modalità a partire da PayPal. Siamo, dicevo, alla puntata di oggi, giovedì 11 febbraio del 2016. Eccoci con Elena Ratti di Nexo Digital per parlare della distribuzione di TED 2016 Dream Conference, in uscita in sala il 16 febbraio prossimo. Elena, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, mi incuriosiva molto questa iniziativa, anche questa Dream Conference, per cui ho detto parliamone, perché no. Allora Elena, ci spieghi un po' di cosa si tratta? Sì, certo, molto volentieri. Allora, innanzitutto non tutti potrebbero sapere che cos'è TED in genere. È un brand che sta diventando molto popolare sempre di più tra addetti ai lavori, ma soprattutto tra le persone più smart di tutto il mondo, che sono attenti alle nuove tendenze e a dove stiamo andando, cioè dove il mondo ci sta conducendo, dove le menti più brillanti del paese, cioè del mondo in realtà, possono portarci e dove ci stanno portando. Quindi in sostanza TED è l'acronimo di tecnologia, entertainment e design. La ricetta bomba di TED, che in sostanza è un ciclo di conferenze in cui viene proposto il meglio della cultura e dell'innovazione, è proprio questo, cioè prendete le tematiche più calde nel momento in ambito tecnologia, entertainment e design. Scegliete le menti più brillanti del mondo, quelle più richieste, ricercate, apprezzate, e lasciate a ciascuna di loro 18 minuti per parlare. In quella manciata distante può accadere qualunque cosa, possono scatenarci scintille, e da lì a breve queste cose potrebbero rivoluzionare il nostro modo di essere e di vivere il quotidiano, perché infatti sostanzialmente ognuno dei protagonisti che parla durante una conference di TED ha qualcosa di importante da dire, un sogno nel cassetto che sta per realizzarsi o che si è realizzato. E quindi perché partecipare a queste TED conference? Per scoprire perché i sogni contano, per capire che possiamo ad arrivare a realizzarli questi nostri sogni, perché abbiamo degli esempi che sono quelli che vedremo che vediamo e continuiamo a vedere ormai da anni, e che vedremo per la prima volta al cinema in diretta mondiale il 16 febbraio alle ore 20, personaggi che i loro sogni li hanno già realizzati. E negli anni si sono succeduti personaggi come Bono Vox, Bill Clinton, Bill Gates, Michelle Obama, J.J. Abrams, Philip Stark, Al Gore, James Cameron, e potrei continuare con una quantità infinita di premi Nobel, Oscar, eccetera eccetera, che hanno fatto la storia di TED e che nei loro 18 minuti intrattengono il pubblico o lo istruiscono con quello che potrebbe diventare anche la ragione del futuro di chiunque di noi, cioè anche noi potrebbe scoccare anche in noi la scintilla per poter realizzare il nostro prossimo sogno. Quindi il tutto in un format di una durata di 2 ore. Sì, sono 2 ore e in realtà questa cosa che accade il 16 di febbraio è la cerimonia di apertura della nuova stagione dei TED 2016, di queste conferenze che, tanto per darvi un'idea di quanto siano ricercate, tutte le TED Conference dell'anno 2016 sono esaurite, quindi l'unico modo, cioè l'unica in cui in questo momento a cui in questo momento si può partecipare è al cinema in tutto il mondo solo il 16 febbraio alle ore 20. Mm-hmm. Perché non si potrà neanche guardare in streaming online, non verrà fatta online, perché alcune di queste conferenze, lo dico per coloro che magari sono già familiari all'argomento, vengono anche mandate in streaming, ma questa è un'esclusiva cinematografica. Ho capito. Quindi o lì o niente. Senti Elena, per saperne di più, i riferimenti in Exo Digital diamo? Sì, i riferimenti in Exo Digital, la lista completa di tutti i cinema che partecipano all'evento la si può trovare su il sito nexodigital.it, nella pagina dedicata a TED 2016, e dalla quale si può accedere all'elenco dei cinema e ai vari siti dei cinema dove poter preacquistare i posti, che stanno già andando molto bene in prevendita. Siccome esistono appunto, oltre che questo TED Corporate, che è l'organizzatore mondiale di questo evento, esistono i famosi TEDx, che sono i TED locali, che sono un organico di persone che in svariate città in Italia nell'arco degli ultimi 2 anni hanno attivato anche loro le loro conferenze, invitando luminari da tutto il mondo per fare le loro proprie conferenze a livello locale, e sono anche queste molto molto quotate. Bene. Come conclusione, se posso aggiungere un'ultima cosa, nel cast dei protagonisti di questo appuntamento ci saranno, per dare un'idea, Shonda Rhimes, che è una scrittrice e produttrice famosa per aver creato le serie più famose del mondo come Grey's Anatomy, Scandal, Private Practice, eccetera eccetera. Un dottor Astroteller, che è un imprenditore e mentore autore ed è il capitano dei progetti X, che sono quelli tipo Google Alphabet, che sono quelli che hanno inventato i Google Glasses. E poi Bill Jones, che è un direttore coreografo ballerino pluripremiato, che ha dato vita alla New York Live Arts nel 2011, il musicista premio Oscar Rahman, che ha scritto la colonna sonora del film The Millionaire, un italiano, Dan Pallotta, o italo-americano sarebbe meglio dire, che è il paladino delle charity, il fondatore di AIDS Ride, con cui aiutando l'umanità riesce ha costruito un modello di business che funziona anche a livello economico. In più abbiamo Riccardo Sabatini, un altro scienziato imprenditore, una ragazza scrittrice che ha pochissimi anni, ha 8 anni, ha già trovato il successo, e questo solo per darvi un'idea di quelli che saranno i primi a esibirsi e a performare in questa conferenza del 16 febbraio. Quindi, al cinema. Tra arte e tecnologia. Elena, io ti ringrazio, sì. Ci sentiamo per le prossime novità. Va bene, molto volentieri, grazie a voi di averci ascoltato. Ciao Elena, a presto. Ciao. Grazie mille, ciao ciao. Elena Ratti di Nexo Digital sulla distribuzione di TED 2016 Dream Conference, in uscita in sala il 16 febbraio prossimo. Giulia Mariani di Adler Entertainment sulla distribuzione del film The End of the Tour, un viaggio con David Foster Wallace, in uscita in sala oggi giovedì 11 febbraio. Giulia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, un film, uno strano biopic, perché prende in esame pochi giorni della vita dello scrittore, del celebre Wallace, David Foster Wallace. Raccontaci un po' di cosa si tratta. Sì, esatto, è la storia di David Lipsky, che è un giornalista di Rolling Stone, che nel 1996 segue David Foster Wallace nel tour promozionale di Infinite Jest. E come dicevi tu poco fa, il film si concentra proprio su 5 giorni che vengono, è praticamente una conversazione che viene registrata su cassetta da David Lipsky, in cui i due scrittori parlano di tutto e di più, parlano dell'essere scrittori, ma parlano anche, hanno tutte e due intorno ai 34 anni quando si svolge il film, quindi parlano anche di cosa vuol dire avere quell'età in quel determinato periodo storico, parlano delle loro paure, delle loro preoccupazioni e di argomenti anche molto più leggeri e divertenti, dalla musica alle donne. E è una lunga conversazione che viene registrata. In cui comunque già compare il fantasma della solitudine che porta poi alla disperazione di David Foster Wallace. Sì, assolutamente, poi determinati argomenti anche meno leggeri vengono comunque a galla. Certo, David Foster Wallace è stato uno scrittore culto per la sua generazione e si porta dietro comunque tutta un'aura di anche di temi abbastanza profondi. Senti, come è stato l'incontro con questo film della Adler e la scelta poi di distribuirlo? Ma questo film ci siamo molto affezionati e molto orgogliosi, siamo molto orgogliosi di distribuirlo, perché è un film di Sony Classics e appunto noi ci siamo avvicinati al film attraverso la Sony, che l'ha distribuito in poche copie quest'estate negli Stati Uniti. È stato presentato al Sundance l'anno scorso e noi ci siamo avvicinati a questo film per il tema, perché ci piaceva moltissimo, ci tenevamo a portare, a distribuire anche in Italia un film su David Foster Wallace. E il film è molto bello, ci sono due interpretazioni favolose dei due attori principali, che sono Jason Segel e Jesse Eisenberg, e quindi speriamo che piaccia tantissimo anche a voi. Senti Giulia, al Sundance aveva avuto dei buoni riscontri e volevo sapere poi com'è andata l'uscita negli Stati Uniti, che tipo di risultati? Ma negli Stati Uniti è andato molto bene, considerando che comunque però era una limited release, quindi sì, non in moltissime copie. Al Sundance ha avuto un successo incredibile, le recensioni uscite l'anno scorso negli Stati Uniti sono state molto positive e quindi anche questo comunque è stato incoraggiante per noi. Bene, quante copie sarà in sala da oggi? Una sessantina, siamo a 60 al momento. Bene, bene. Allora Giulia, io ti ringrazio, ricordiamo il film The End of the Tour, un viaggio con David Foster Wallace, in sala da oggi giovedì 11 febbraio. Un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille, correte al cinema. Ciao Giulia. Ciao, grazie. In collegamento con Cristiano Regina, curatore della rassegna Astradoc, viaggio ai confini del reale a Modena a partire dal 16 febbraio fino al 26 aprile. Cristiano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Intanto una curiosità, Astradoc comunque è una realtà presente in più città italiane. Allora sì, in realtà si tratta di una iniziativa che abbiamo scoperto essere non la unica, diciamo, in questo tipo di caratteristica, nel senso che esiste una esperienza simile a Napoli, sì, e anche in altre città. La nostra rassegna sicuramente ha degli elementi distintivi. Cerchiamo intanto di dare spazio e possibilità di fruizione a film documentari che o non hanno distribuzione, che sono indipendenti e che sono passati in questi mesi nelle sale cinematografiche per brevi periodi. E poi cerchiamo soprattutto di valorizzare la sala del cinematografica, quindi di non renderla semplicemente un luogo di fruizione commerciale, ma di fare in modo che diventi anche uno spazio di relazione, di incontro e di discussione. Infatti in questo senso la serata inizia di solito alle 19 con un aperitivo con il regista, quindi c'è la presenza anche dell'autore, poi un concerto live con delle realtà del territorio modenese e poi la proiezione vera e propria con discussione del film appena visto. Quanti sono i titoli in programmazione in questa rassegna? Allora, sono 6 titoli, iniziamo il 16 febbraio, martedì 16 febbraio, con Bella e Perduta alla presenza di Pietro Marcello. Ci faceva piacere iniziare con il film di Pietro perché un po' traccia anche l'itinerario onirico, immaginario che inizia attraverso questa rassegna, perché appunto nelle intenzioni di Voice Off, che è l'associazione che con Arci cura la rassegna, era proprio di individuare dei titoli che avessero la possibilità di evocare il senso del viaggio nel paese reale e di farlo attraverso delle opere in qualche modo non classificabili in genere specifico. Ecco, per questa ragione appunto il sottotitolo Viaggio ai confini del reale, perché non si tratta esclusivamente di opere documentarie in senso stretto, e l'esempio di Bella e Perduta è evidente in questo senso appunto, ma di lavori dietro il quale c'è uno sguardo forte appunto di un autore, e quindi poi altri titoli su questa linea sono Sponde di René Dionisio, Smoking di Michele Fornasero, L'infinita fabbrica del Duomo di Danossi e Parenti e così via. Quindi sono dei lavori che hanno una forte impronta autoriale e che cercano di raccontare il paese attraverso un lavoro in profondità, ecco. Tra l'altro sono tutti i titoli, quelli che hai citato, che sono già passati per queste frequenze con i loro autori. Volevo chiederti, Cristiano, Astradoc quando nasce nella realtà modenese e che percorso ha avuto? Allora, noi l'anno scorso diciamo, come associazione abbiamo collaborato con gli amici del Kinodromo di Bologna, che già da qualche anno al Cinema Europa al Pratello stanno cercando di promuovere una fruizione cinematografica alternativa rispetto alla classica sala cinematografica, e quindi con loro l'anno scorso abbiamo iniziato una rassegna di cinema indipendente, cercando appunto un po' di replicare anche la loro esperienza e quindi anche di della possibilità di essere al cinema e di relazionarsi, di ascoltare musica, di fare un aperitivo. La formula ci ha molto convinto, ci è piaciuta e però noi come associazione Voice Off già da qualche anno a Modena stiamo cercando di fare in modo di promuovere il cinema documentario, il cinema del reale, e quindi quest'anno con Arci Modena abbiamo scelto una strada appunto differente, e quindi di selezionare delle opere più appunto di impronta reale, e per questa ragione diciamo la rassegna ha una direzione che va in questo senso. Cercheremo di mantenere comunque questo spirito di condivisione e di partecipazione attiva da parte sia del pubblico che degli autori. A proposito di cinema del reale, che insomma in generale il documentario sta prendendo sempre più piede anche in Italia, e sempre più autoriale, sempre più commisto poi tra realtà e finzione, e molta attenzione appunto alla realtà. Ecco, secondo te che evoluzione sta avendo negli ultimi tempi il cinema del reale? Guarda, io credo che sia in questo momento l'ambito, lo spazio di sperimentazione maggiore, nel senso che ci sono molti autori che hanno il coraggio di elaborare dei linguaggi nuovi, senza appunto la paura di doversi confinare, o il timore di doversi necessariamente confinare entro limiti stabiliti. Quindi pensiamo appunto ai lavori di Pietro Marcello, sì, di Michelangelo Frammartino, così come di Rosi, o in America, negli Stati Uniti, Minervini. Qui ci sono questi autori appunto che hanno, come dicevo prima, una forte impronta e uno sguardo autoriale, e che non temono di combinare linguaggi e quindi anche di trasfigurare la realtà. Questo senso di libertà, questa possibilità appunto di agire un po' al di fuori dei circuiti tradizionali cinematografici, secondo me è un tratto distintivo di questo tipo di cinema. Poi è chiaro che molti di questi autori che ho citato prima non amano molto questa definizione stessa di cinema del reale, perché poi in fondo è cinema, è un'opera che comunque è di creazione e che chiaramente non può limitarsi a registrare la realtà, comunque diciamo una, come dicevo appunto prima, una trasfigurazione. Un'altra cosa che mi veniva in mente è che le rassegne e più in generale i piccoli festival nelle realtà di provincia tendono, questo avviene sempre più spesso negli ultimi tempi, a collocarsi all'interno dell'anno, al di là poi dei periodi in cui si focalizza la loro attenzione con appunto festival e rassegne, e quindi cercano di coprire l'intero arco dell'anno con proposte culturali. Ecco, questo succede anche per voi? Sì, noi diciamo che come associazione, l'associazione Voice Off, che già opera a Modena dal 2009, propone visioni, proiezioni, dibattiti, eventi culturali lungo tutto il corso dell'anno, sì, con la predilezione appunto, come ti dicevo prima, per il cinema del reale e il cinema documentario. Utilizziamo e cerchiamo anche di utilizzare questo strumento e questo linguaggio anche in senso sociale, perché appunto gestiamo laboratori di video partecipativo con richiedenti asilo politico, con rifugiati, con detenuti nella carcere Sant'Anna. Quindi in realtà non solo cerchiamo di promuovere cinema che altrimenti non avrebbe possibilità di visione, quindi un cinema invisibile, ma al tempo stesso cerchiamo nel nostro piccolo e con le conoscenze che abbiamo di utilizzare questo linguaggio per creare dei ponti, per creare delle relazioni tra persone, perché è un cinema intimamente immerso nella realtà quotidiana, e più di ogni altra forma giornalistica o di reportage, probabilmente quella forma di linguaggio che in questa fase, in questa storia, in questo periodo contemporaneo riesce appunto a mettere in connessione le persone, e sia in senso di fruizione cinematografica che anche nella realizzazione stessa. È intimamente appunto, come dicevo prima, un cinema di relazione, e noi su questo investiamo molto. Ci dai i riferimenti per seguire più da vicino la vostra attività in rete? Sì, allora su Facebook Voice Off Modena, e invece il sito internet è www.voiceoff.it. Quindi su questo sito potete trovare appunto il programma della rassegna e tutte le altre informazioni riguardo le nostre attività. Come dicevo appunto prima, la rassegna partirà martedì 16 febbraio e andrà avanti a cadenza bisettimanale fino alla fine di aprile. Permetto appunto di dire l'ultima cosa, è che è una rassegna che è organizzata con ACI, ma che ha avuto anche il supporto e il sostegno del Comune di Modena e della Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia. Cristiano, un abbraccio, a risentirci alla prossima. Grazie, a presto. A presto, ciao. Cristiano Regina, curatore della rassegna Astradoc, viaggio ai confini del reale, a Modena dal 16 febbraio fino al 24 aprile. Alessandro Piva, regista del film Milionari, in uscita in sala oggi, giovedì 11 febbraio. Ben ritrovato a Visionari, Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Freddy. Allora, sinceramente devo ancora vedere il tuo film, ma avendo seguito i tuoi lavori precedenti ti volevo in trasmissione, anche visto il tema che affronti in questa nuova avventura. Milionari, per chi ci ascolta, di cosa tratta, Alessandro? Milionari è la storia di un boss di malavita napoletano che insieme a tutto il clan conosce un periodo negli anni 80 di fulgore, potere, sopraffazione, e poi piano piano implode, come implode un po' il paese tra gli anni 90 e il 2000, e per arrivare alla crisi attuale, ed è quindi la parabola un po' del paese attraverso quella di una città come Napoli, così dai colori così forti, dai chiaroscuri giganteschi. Mi è sembrato un'ottima occasione di fare un affresco in qualche modo di questi ultimi 30 anni. Senti, la scintilla che ha fatto partire tutto qual è stata? È stata un libro che si intitola proprio I Milionari, quasi come film. Noi abbiamo giusto levato l'articolo, un libro molto molto interessante secondo me, che è scritto un magistrato, Luigi Alberto Cannavale, insieme con Giacomo Genzini, e che racconta le dichiarazioni e le riflessioni di questo, proprio di questo boss che ha ispirato poi il racconto cinematografico. Senti, rispetto... La sceneggiatura poi ecco, è stata scritta insieme con me da Massimo Gaudioso, l'autore di Gomorra, di Benvenuti al Sud, cioè quindi un autore napoletano che ha saputo raccontare la città sotto diversi aspetti, e Giacomo Genzini stesso, uno dei due autori del libro. Quindi insomma, diciamo, l'impianto l'abbiamo mutuato decisamente dal libro, poi io ci ho messo un po' di, ho cercato, visto che ti piacciono i miei film precedenti, ho cercato di mantenere quel registro lì che a me è caro, quello di raccontare la realtà che ci circonda con un vero, con una forte verosimiglianza, e però allo stesso tempo rivendicando il diritto all'invenzione, all'innesto d'autore, creativo, spero anche poetico a volte. Insomma, se c'era da staccarsi dalla realtà in certi casi non mi sono tirato indietro, perché penso che sia, come dire, se no fai documentario, no? In fondo. Certo. Senti, è stato questo il più grosso elemento di differenziazione rispetto alla pagina scritta? Penso di sì. Diciamo, i temi di questo film sono un po' come l'Iliade per i napoletani, sono fatti processuali, giudiziari accertati, sono personaggi quasi epici per una città che con la malavita ci fa i conti da secoli. Però allo stesso tempo, poi immagino che Omero abbia fantasticato nel partire da spunti reali, così noi, sia in scrittura che in regia, poi in messa in scena, ci siamo rivendicati questo diritto, e questo fa del film anche un omaggio al gangster drama americano. Penso a De Palma, penso a Scorsese, penso a quel cinema che, al di là dell'action, cioè di un linguaggio che, come dire, si avvicina anche al grande pubblico, no? Abbastanza sì, facile, coglie comunque l'occasione per raccontare dei grandi personaggi. Come dire, anche la backstory, oltre che il plot superficiale di quello che vuole ammazzare a quell'altro, della vendetta, dei soldi, del potere e dell'amore, ma mettendoci anche le motivazioni. Quella è una cosa che mi era cara ed era, come dire, un po' anche la differenza rispetto ad altri miei film. Questo è un film più ambizioso decisamente dal punto di vista della struttura narrativa, perché parla di 30 anni di storia, quindi i personaggi invecchiano, c'è il costume, ci sono i passaggi temporali. Ecco, avevo voglia di cimentarvi con qualcosa di nuovo da questo punto di vista, e sono, devo dirti Federico, molto molto orgoglioso del risultato. Alessandro, mi vengono in mente un paio di riflessioni da fare con te. La prima è, visto che hai voluto fare un affresco di decenni di storia, gli ultimi decenni della storia non solo napoletana ma di questo paese, volevo chiederti come è cambiata in questi decenni, in questo periodo, la criminalità organizzata a Napoli, nello specifico a Napoli, ma più in generale la camorra. Sì, guarda, la camorra fondamentalmente, diciamo, io mi sono documentato a lungo, sono andato, ho parlato con i carabinieri che danno la caccia ai grandi latitanti, con il magistrato che ha riempito di faldoni gli atti processuali, no, di questi anni, e che sono anche le basi di documentazione anche di Saviano per Gomorra, per intenderci. E ho visto che fondamentalmente a onde, ciclicamente, la criminalità organizzata, in particolare a Napoli ovviamente, travolge i vecchi codici. Mm-hmm. Lo ha fatto con la nuova famiglia cutoliana negli anni 70, passando via le vecchie guardie che si fermavano al contrabbando, che avevano quasi un pudore nello sfondare certe remore. E a sua volta la nuova famiglia cutoliana è stata spazzata via da una serie di nuove leve, di scissionisti, prima ancora degli scissionisti, appunto, proprio il clan di Lauro, che si affacciavano dalle periferie napoletane facendo affari col dopo terremoto, e poi ancora nuove leve più giovani. E quindi forse la caratteristica principale è quello di vedere ingiovanita la, tra virgolette, direi, classe dirigente della criminalità organizzata, che è penalizzata anche da un'attività investigativa più efficace, vedendo perso il controllo del territorio, o almeno ridimensionato fortemente, con i grandi capi in galera, si trova costretta a frammentare il potere in gruppuscoli forse anche più pericolosi perché ingestibili. Mm-hmm. I criminali quasi sempre, cioè sempre più giovani, e che quindi dei codici non se ne fregano niente, quindi ci si ritrova veramente ad avere a che fare con schegge impazzite. Ecco, I Milionari racconta anche questo passaggio, piano piano però si ferma un attimo prima. Mm-hmm. Si ferma più al passaggio dai post-cutoliani della Camorra di Lauro, di clan di Secondigliano e di Scampia, a quella faida che ha portato alla scissione, ha lasciato tanti morti sul terreno a Napoli e nella sua provincia. Ecco, in questo quadro la seconda riflessione è il rapporto di questa criminalità organizzata con il potere, le istituzioni da un lato e con la società civile dall'altro. Ecco, come si può descrivere? Il vulnus di questi ultimi 10 anni è stato proprio l'assenza di una forte separazione tra la malavita organizzata, la criminalità che controlla soprattutto le periferie napoletane e fa affari per i fatti suoi. Tutto ciò diventa invece più promiscuo, e allora ecco i politici che entrano più pesantemente nel campo d'azione, e quindi si fa più fatica anche a distinguere. Un tempo c'era questa divisione quasi lombrosiana, tu i cattivi, tra virgolette, mm-hmm, ti riconoscevi. Invece, come anche l'intuizione anche di Matteo Garrone con Gomorra, no? Quella di iniziare a fare più fatica a distinguere. Pensate all'inizio di Gomorra, mi ricordo Garrone era molto affascinato da questa idea di raccontare queste falangi armate della malavita, che hanno uno sguardo, un aspetto presentabile, sono abbronzati, sono belli, hanno i capelli curati, le mani da colletto bianco. Cioè si è persa questa facilità di distinzione sia della morale, mm-hmm, sia anche proprio delle categorie. Questa è la, come dire, forse la cosa più pericolosa, perché 30 anni e passa anche di televisione di basso profilo ci hanno portato a fare fatica a distinguere, sì, tra chi va penalizzato e chi no. Mm-hmm. Pensate al successo popolare che c'è stato in passato di personaggi che veramente possiamo definire borderline, dal nostro ex presidente del consiglio a personaggi che andavano avanti e indietro dalle prigioni e giornalisti li aspettavano fuori per i loro proclami, capite? Sì. Capisci? Qua si fa fatica veramente a dare un'idea di sanzione di chi si comporta oltre la legalità. Questo, mm-hmm, è stato il vero problema di questi ultimi decenni, e spero che su questo si possa lavorare, io col cinema, altri nel loro campo d'azione, per tornare a separare nettamente ciò che è lecito e ciò che non lo è, ciò che va sanzionato e ciò che va premiato. Mm-hmm. Vediamo di riuscirci piano piano, ognuno nel suo terreno. Alessandro, da oggi nelle sale, in quante sale sarà il tuo Milionari? Il mio Milionari esce in una 50 di copie, molte sono localizzate in Campania, ma usciamo anche a Roma siamo al Jolly, al Lux e al Caravaggio, che ha riaperto la sala di Parioli di Apaciello. E dicevo, moltissime sale in Campania, perché il tema ovviamente affascina molto, ti ho detto, un po' l'Iliade dei napoletani, questi fatti. E poi qua e là, Milano, ovviamente altre zone, cioè in Puglia una buona presenza. Mm. Quello che voglio sottolineare, Federico, se ti consenti, sì, è che in questo film al di là della superficie del film di genere, pensa a Gomorra, anche alla serie TV che ha avuto molto successo, noi ci siamo posti, forse per la prima volta nel mio cinema, una tesi di fondo molto evidente, che è quella che, raccontando il prezzo enorme che chi sceglie di fare vita malavitosa paga, cioè nel film i protagonisti, dopo aver avuto un momento di fulgore, iniziano a pagare con la clandestinità, l'allontanamento dalla famiglia, la latitanza, un prezzo salatissimo. Ecco, io volevo sottolineare questo, che un mondo che a Napoli, al sud soprattutto, certe volte viene visto con benevolenza, in realtà comporta una serie di conseguenze difficilissime da accettare, avendone coscienza fin dall'inizio. E quindi spero che questo film, spero che Biglionari abbia anche una vita nelle scuole. Abbiamo iniziato ieri con un incontro, c'era anche De Magistris, il sindaco di Napoli e altre personalità, abbiamo incontrato un pubblico di ragazzi molto attento a Scampia. Spero che questo film, soprattutto al sud, faccia discutere i ragazzi. Alessandro, io ti abbraccio, un in bocca al lupo e a prestissimo. Crepi il lupo, buon lavoro e viva il cinema. Vi abbraccio tutti. Ciao Alessandro. Ciao. Alessandro Piva, regista del film Milionari, in uscita in sala oggi, giovedì 11 febbraio. Tony D'Angelo, regista del documentario Film Studio Mon Amour, che sarà presentato alla sua presenza oggi, giovedì 11 febbraio, all'Apollo 11 qui a Roma. Tony, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao, buongiorno. Tutto a posto? Sì, sì. A voi? Bene, bene. Il tuo documentario ha avuto è stato lanciato al festival qui a Roma. Io in quei giorni ero riuscito a vedere una copia di lavorazione, quindi non l'edizione definitiva. Ora si trova davanti a un pubblico qui all'Apollo 11 qui a Roma. Raccontaci un po' di questa storia, come è partito tutto, Tony. È partito tutto, insomma, dal mio incontro con Armando Leone, che è il che gestisce il film studio da ormai 30 anni, che mi ha messo a disposizione, insomma, tutto l'archivio del cinema, insomma. E, insomma, io ovviamente ho accettato, perché come fai a non accettare, e mi sono ritrovato all'interno di un mondo e un cinema che a me è sconosciuto, insomma, e che ovviamente mi ha affascinato tantissimo, e ho scoperto, insomma, un cinema nascosto e meraviglioso. Anche perché, Tony, il film studio ha vissuto un periodo d'oro in cui ha segnato una pagina importante per la cultura cinematografica e non solo della città Beh sì, il film studio è il primo film club italiano, è sulle tette di quelli francesi, di Parigi, e il film studio era, come dire, il punto di ritrovo dei più grandi artisti, non solo cineasti, che vivevano a Roma e che venivano da tutto il mondo, e quindi Roma era anche un altro tipo di città, era una città viva, era una città in cui, appunto, che non aveva nulla da invidiare alle grandi metropoli dell'estero, come dice anche Apra nel documentario, che in quel periodo gestiva il film studio, insomma. Senti, il tuo lavoro che percorso avrà? Dopo Roma che è successo? Beh, sicuramente uscirà in DVD con Raro Video, siamo in attesa di capire se riusciamo ad avere una distribuzione nelle sale. In realtà adesso siamo fermi perché il film studio sta attraversando un momento un po' particolare, per chi non se ne sia accorto il film studio è chiuso, è ancora chiuso, insomma. Quindi diciamo che la nostra speranza è di riuscire a riaprire il film studio con il nostro documentario, ecco. Ecco, al momento quali sono le prospettive rispetto a questa chiusura? Ma le prospettive io personalmente non le conosco, perché non gestisco, sono un amico, però è chiaro che è evidente che il Pre-Studio in questo momento ha tante difficoltà e io mi auguro che non sia una delle tante sale che negli ultimi anni ci stanno, come dire, ci stanno lasciando. Insomma, sarebbe un peccato enorme, insomma, quantomeno per la storia che ha e per, come dire, il prestigio che dà una città come Roma. Senti, questo enorme archivio, che tipo di fruizione potrebbe avere prossimamente, secondo te? Beh, in un'epoca in cui si vede tutto su internet, tablet, eccetera, eccetera, questo enorme archivio è composto da film che, se non si vedono su in studio, penso che non si vedranno da nessun'altra parte. Io ho visto dei film indipendenti che non hanno neanche, come dire, il regista, nel senso non si sa chi è il regista, che hanno nell'archivio, che sono film bellissimi. Quindi ecco, c'è anche la possibilità di rimettere in circolazione un cinema ormai, come dire, quasi riscoprire qualcosa che veramente, se non fosse per il Film Studio, nessuno conoscerebbe. Quindi insomma, i Super 8 d'autore, insomma, eccetera eccetera, insomma, cinema d'arte, cinema d'artista, sì, eccetera. Senti, nell'ultima volta che sei stato qui da noi era per il tuo film di finzione, poi sei passato a questo documentario. Come ti trovi nel passaggio a questi diversi tipi di linguaggio, e poi su cosa sei al lavoro prossimamente? Allora, mi trovo bene in questi passaggi perché, diciamo, rappresentano un po', come dire, un mio modo di studiare, sì, penso che tutto quello che faccio, non essendo un documentarista, quando mi approccio a questo tipo di linguaggio lo faccio più per curiosità personale, no? Che sì, per strategia registica, come dire, di carriera, ecco. E quindi per me, io mi ci trovo benissimo, perché grazie a questo linguaggio ho scoperto i poeti romani e non solo, ho scoperto il Film Studio e tutta questa cinematografia nascosta, e poi mi permette anche di, come dire, di lavorare in periodi un po' più morti tra un film e l'altro, no? Sì. Quindi ecco, e in questo momento mi trovo a Napoli proprio adesso, preparando il nuovo film che inizieremo a girare ad aprile, che sarà un poliziesco melodrammatico ambientato a Napoli, e che sarà completamente diverso dai miei film precedenti. Sarà un film più grande, un film più per il pubblico, più, come dire, più di massa. Passaggio importante. Allora sicuramente avremo modo di riparlarne. Me lo auguro. Tony, un abbraccio. Allora, un abbraccio a voi e grazie. Ricordiamo stasera l'appuntamento all'Apollo 11 con il tuo documentario Film Studio Mon Amour, in cui ci sarai presente anche tu. Io, ovviamente. Esatto. E ci sarà Adriano Aprà che presenterà il film. Insomma, sarà una bella serata. Bene. Allora, un abbraccio e a risentirci presto. Un abbraccio. Ciao, Tony. Ciao, ciao, ciao. Tony D'Angelo, regista del documentario Film Studio Mon Amour. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Donatello Fumarola, per parlarci della presentazione del film Rivoluzione Zangi alla libreria Anomalia qui a Roma domani 12 febbraio, venerdì 12 febbraio. Donatello, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao. Allora, tu tra l'altro mi hai mandato al volo qualche pagina in PDF rispetto appunto a questo titolo. Raccontiamo di cosa stiamo parlando. Cos'è questa Rivoluzione Zangi? Beh, Rivoluzione Zangi è un film algerino di un regista abbastanza giovane, Tariq Teguia, e lo abbiamo, nel farlo circolare, diciamo, lo abbiamo affiancato a un testo che tecnicamente c'entra poco e nulla con Tariq, è un testo scritto dai situazionisti nel 62, mi pare. 65 leggo qui. 65, scusa. Come si dice? Ci sembrava molto vicino per il tracciato che percorre il film nel suo inseguire le rivolte nella storia del film, quella degli Zangi, poi nella realtà incontra le rivolte arabe che ci sono state 3-4 anni fa e che hanno incrociato le riprese del film. Non era, diciamo, fatto apposta all'incrociare le varie situazioni di rivolta. E il testo situazionista e il film hanno un dialogo a distanza spaventoso rispetto purtroppo alla situazione attuale, quindi questo era un po' il senso dell'operazione di far uscire insieme due cose apparentemente lontane. E niente, stasera presentiamo sia il libretto che proiettiamo il film che stiamo facendo un po' circolare in giro. Senti, per questo appuntamento come è nato questa presentazione alla libreria Anomalia qui a Roma, a San Lorenzo? Per un'evidente affinità, diciamo, rispetto alla libreria, le persone che con fatica la portano avanti, gli avevamo portato un po' dei libri da lasciarli, diciamo, lì in vendita da loro, e c'è stata in realtà una richiesta da parte loro, si sono accesi credo Andrea e gli altri sia sul testo che sul film. Anomalia fa dei cicli di film da anni, ricordo aver visto moltissimi anni fa delle cose molto belle, quindi sì. In realtà è stato un venirsi incontro rispetto alle cose che ognuno insegue poi nel suo, quindi questo credo sia un po' una questione di pura affinità. Non c'era una premeditazione, diciamo. Senti Donatello, parlavamo del 1965 di Internazionale Situazionista, quali sono i punti di contatto possibili con le rivoluzioni della cosiddetta primavera araba? Allora, non credo di essere la persona che ha la cultura data per parlarne. Non parlerei di rivoluzioni, perché tutte le rivolte, i tentativi, diciamo, di rovesciare i sistemi che lì governano da svariati anni sono un po' tutti naufragati, uno a mia memoria, certo, che di cui si possa, diciamo, dire bene. Non ultimo l'Egitto, dove credo stiano infinitamente peggio ora. Una restaurazione militare, sì. Nei fatti sì, quindi quelle che giornalisticamente nell'imbecillità occidentale nostra si parlava di primavere, così sono stati cupi inverni. Sì. Il film in un modo onesto racconta molto bene questo, racconta dal di dentro, perché è stato girato dal di dentro alcune di queste rivolte, cose di cui magari anche noi, si sa poco. Ad esempio in Palestina ci sono stati, diciamo, come ci sono permanentemente tentativi di non lasciare né integralisti, diciamo, di matrice musulmana, né a conservatori, che sono poi quelli che prendono più facilmente in mano il potere, perché sono i militari dalla loro parte, quindi però ti ripeto, non credo di essere la persona adatta a parlare di questo. Però rispetto invece al film, magari ci puoi dire qualcosa sul modo in cui queste rivolte sono entrate nella pellicola, insomma, nelle immagini. Guarda, la storia del film, che è, diciamo, la base di partenza, è un giornalista algerino, una sorta di alter ego del regista, che va alla ricerca di una traccia storica di una rivolta degli Zangi, appunto, che erano schiavi neri che si sono rivoltati nel, mi pare, 11 o 12 secolo contro gli Abbassidi a Baghdad, e ci sono delle tracce di questa rivolta che c'è stata, diciamo. Nel film si inseguono queste tracce, il personaggio non le trova, e poi quello che invece è successo nella realtà delle riprese è stato che Tariq e la piccola troupe che ha composto il film, l'attore, l'operatore, il fonico, eccetera, muovendosi dall'Algeria all'Egitto, Libano, in Palestina, l'Iraq, per finire in Grecia, hanno trovato, senza averlo calcolato, le situazioni che stavano esplodendo tra il 2011-12, prima del 2013, diciamo, e sono entrate in questo modo. Non vorrei svelare certo. Il finale, che è molto bello e ci parla molto da vicino, però anche quello, diciamo, è frutto di una felice casualità rispetto a quello che il film si poneva come obiettivo, come inseguimento, e poi quello che la realtà gli ha restituito in modo molto duro, come un rilancio a carte, diciamo. La realtà è stata più feroce, più radicale che non le intenzioni di chi voleva fare un film. E il film è l'incontro di queste due cose, che secondo me è stato un incontro molto felice. Diciamo. Senti Donatello, ma la Strada Film in questa iniziativa come entra? Che ruolo ha? Ma la Strada sono dei guastatori, sono dei grandi, secondo me, fanno cinema in modo molto strano e barbaro. Di solito sono ospitati da cose, musei, esposizioni d'arte, che puntualmente li cacciano via perché riescono sempre a seminare zizzagne. Anche lì c'è stata un'affinità reciproca rispetto a quello che si vuol fare nella misera realtà italiana che ci circonda, e abbiamo deciso di noi di Zomia e loro che stanno a Paternò ma che si muovono abbastanza, fare delle cose insieme. La prima, più semplice e immediata, era far circolare testi, film, materiale d'archivio che ci sembra giusto e interessante che circoli, per cui semplicemente abbiamo unito le forze rispetto a delle idee comuni. In questo caso noi abbiamo fatto il libro e Alessandro di Malastrada ha seguito la produzione del DVD, e insieme abbiamo fatto, diciamo, metà del lavoro a testa, e stiamo un po' cercando di farlo veicolare così, e sarà così anche rispetto alle cose future. Ecco, proprio rispetto alle cose future, Donatello, c'è un qualche luogo internet per potervi seguire? Sì, c'è il sito di Zomia, che è semplice, zomia.it, o il sito di Malastrada, che è malastradafilm.com. Il sito di Malastrada in particolare è molto ricco, loro lo alimentano costantemente di ogni cosa, da testi di Bonanno a film piratati, alle cose che facciamo circolare noi, alle ricerche molto siciliane, perché loro lavorano tantissimo sul territorio e sui materiali che poi raccontano il territorio. È molto bello, insomma, se uno ha un po' un'ora o due che vuole farsi un bel viaggio, andare sul sito di Malastrada è una bella avventura. Bene, allora ricordiamo, Donatello, l'appuntamento domani alla libreria Anomalia qui a San Lorenzo a Roma con la presentazione del film Rivoluzione Zangi. A che ora? Alle 9. Alle 21. Benissimo. Benissimo. Allora, Donatello, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, un abbraccio a voi. Ciao ciao. Donatello Fumarola per parlarci appunto della presentazione del film Rivoluzione Zangi qui a Roma, alla libreria Anomalia. Mario Sesti, curatore di un ciclo di 3 masterclass al Maxi qui a Roma a partire dal 15 febbraio. Mario, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi, grazie. Eccoci. Allora, 3 masterclass, si comincia con l'Archibugi, raccontaci un po'. Beh, in realtà sono più di 3, perché nel senso che ci sono quelle del Maxi, ci sono anche quelle di Cityplex, del circuito della Filmauro. Abbiamo cominciato con Castellitto, come avete lanciato voi, e adesso continuiamo con l'Archibugi, con l'idea non solo di raccontare tutti i colori del cinema, perché ci saranno anche autori come Garrone, grandi autori, attori come Paleo, un cantautore come Battiato, un grandissimo autore europeo come Radomir Ilaro, Ma fondamentalmente, naturalmente ci sarà il cinema. Che cosa vuol dire scrivere un film? Che cosa vuol dire dirigere degli attori? Che cosa vuol dire avere fatto, essere usciti dal conobuio? Perché Federico, tu lo sai bene quanto me, quanto sia difficile per un autore di cinema oggi raggiungere un pubblico, no? La TV l'ha fatto con un esordio molto controverso, che ha subito diviso in due come una mela il suo pubblico. Difatti è un'attrice che è amatissima o molto meno, però credo che difficilmente gli si possa contestare il fatto che è riuscita a costruire un colloquio, no? Un dialogo, una conversazione con un pubblico che a questo punto è transgenerazionale, tra coloro che erano bambini forse o adolescenti ai tempi di, appunto, Mignone Partita, e poi sono diventati dei trentenni attardati alla ricerca del nome di un figlio, appunto del nome di un figlio che è stato il suo debutto, è stato anche un successo più che lusinghiero. Tra l'altro apro una parentesi, Mario, perché io quel film infatti lo vidi praticamente da adolescente e ci fu anche l'incontro con Francesca. Ecco, quindi tu sei un testimone vivente. Esatto. Hai seguito, credo, con alterne vicende, no? Il cinema dell'Archibugi, a volte naturalmente amando, a volte credo respingendo, no? Un po' come si fa con i compagni di strada, con gli amici, no? Con le fidanzate, no? Ma credo che sia quella presenza lì, e soprattutto indipendentemente, appunto, dal nostro trasporto, dall'importanza, c'è una conoscenza, un'intelligenza, una capacità, un'abilità, un'esperienza, una devozione nei confronti. L'Archibugi, per esempio, è una che scrive delle sceneggiature straordinariamente rifinite. Io ho avuto l'avventura di leggere per professione, e invece poi traduce tutto questo in un cinema semplicissimo, secondo alcuni troppo semplice, addirittura un po' rudimentale, no? Mm-hmm. Ma però penso che questo siano dei fasci, no? È uno dei tanti modi in cui si può produrre la scintilla del cinema, una scrittura molto ricercata e un'inquadratura molto elementare, no? È una cosa che peraltro appartiene un po' al nostro cinema, perché dal neorealismo in poi la semplicità dell'inquadratura, da Rossellini a Pasolini, è stato un po' un must, diciamo così, il diapason. Ci saranno, abbiamo ricevuto molte adesioni da parte dell'Accademia d'Arte Drammatica, ma anche da molti licei. Credo che sarà un incontro molto interessante, e inviterei coloro che vogliono parteciparvi ad affrettarsi a prendere i biglietti, perché la sala del Maxi non è grandissima, e se vogliono partecipare, diciamo, anche comprando i biglietti online, si può fare molto agevolmente. Costa solo 5 euro. La politica della Fondazione Cinema Roma è molto popolare, e quindi chiunque fosse interessato ha questa opportunità. Senti, come, per chi, ecco, proprio per chi ci ascolta, più o meno come sarà strutturata, strutturato, diciamo, l'incontro di Masterclass? È un po' quello tipico degli incontri della Festa del Cinema, di cui io sono tra i massimi responsabili. Sicuramente c'è una nicchia nell'inferno, non mi aspetta per questo. Fondamentalmente sono delle conversazioni, sì, cioè né televisione né università, diciamo. Sì. La mia barra è nel tenermi distante da queste due cose, non è il gossip o il sensazionalismo o la volgarità TV, ma neanche l'accademia, l'erudizione, il linguaggio per specialisti. Lì dentro c'è qualcosa in mezzo che è stato capace di parlare a tanti spettatori, e poi soprattutto ci sono le clip, c'è il cinema. Abbiamo scelto insieme a Francesca diverse inquadrature, diverse scene, diciamo, concordando. Ci sono 3 film, ecco, questo lo posso dire in anteprima, quindi uno scoop assoluto, che lei ha scelto, che non sono appunto film fatti di altri, e che sono 5 pezzi facili. Ah, che bello! Papà è in viaggio d'affari. È un film di scuola che sarà una piccola sorpresa, diciamo, lei vuole dirlo all'ultimo. Però sono tutti e 3 film che non solo l'hanno avviata, diciamo, verso questa carriera, ma che sono stati importanti. E poi, soprattutto i primi 2 sono film di formazione, no? La Archibugi è diventata famosa proprio per questa sua capacità di avere un occhio ipersensibile e palpitante in quella fase particolare in cui si passa dall'infanzia all'adolescenza o dall'adolescenza alla maturità, che sono quegli snodi che poi finiscono per essere cruciali per farci capire cosa siamo diventati e cosa farne di noi stessi, diciamo, in qualche modo. Mario, le masterclass avranno una cadenza regolare? Beh, più o meno, nel senso che più o meno ogni 2-3 settimane, per l'appunto, ci sarà a marcio ce ne saranno, appunto, ci sarà Garrone, poi ci sta Franco Battiato, che presenta in esclusiva al cinema il suo film diciamo sul bardo, il passaggio dalla vita alla morte secondo i sacri libri tibetani, e poi ad aprile ci saranno per l'appunto Papa Leo e ancora prima Radu Nyaileanu, il grande regista di Trandevi, del concerto, sì, che viene dalla Francia apposta per noi, ha da poco ultimato un film, siamo riusciti a strappargli un paio di giorni in cui fare questo incontro a Roma. Allora, ricordiamo il primo degli appuntamenti con Francesca Archibugi al Maxi qui a Roma il 15 febbraio per la lunedì prossimo. Esatto, per la masterclass. Mario, un abbraccio, a risentirci alla prossima. Grazie Federico, grazie a tutti gli ascoltatori, a presto. Ciao, ciao, ciao. Mario Sesti, curatore appunto del ciclo di 3 masterclass che poi saranno di più in realtà al Maxi qui a Roma. Terenzio Cugia di Cineama per parlare della distribuzione del film Il Sentiero della Felicità in uscita in sala il prossimo 16 febbraio, cioè martedì. Terenzio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, benvenuto a tutti, buongiorno. Allora, si parla di yoga, questo mi incuriosiva, cos'è Il Sentiero della Felicità? Il Sentiero della Felicità è il racconto, un film documentario sulla vita di Paramahansa Yogananda, che è uno dei più grandi leader spirituali dell'India del XX secolo, della persona che introduce il Kriya Yoga negli Stati Uniti negli anni 20. È famoso a livello mondiale perché con il suo libro Autobiografia di uno Yogi riesce a vendere milioni di copie in tutto il mondo e a rivoluzionare il pensiero filosofico indiano. Introduce lo yoga nella vita di milioni di persone. Ecco, qual è il segreto di questo di questa espansione di questa conoscenza diffusa? Ma da una parte la personalità magnetica di Yogananda, infatti il film racconta la sua vita e anche vede i contributi da oltre 30 paesi di molte persone famosissime che il suo pensiero ha influenzato, da Steve Jobs, che aveva Autobiografia di uno Yogi come unico libro sul suo iPad, a George Harrison, che dichiara che la sua vita non avrebbe avuto senso senza conoscere il pensiero di Yogananda. Credo che il pensiero di Yogananda sia stato fondamentale nel portare un livello di conoscenza della meditazione come parte della spiritualità, ma anche come pratica giornaliera, in un certo senso togliendo quell'alea di connubio tra religione e spiritualità che in molti casi nell'Occidente è sempre stata vista come parte dello stesso pacchetto. Senti, è questa la ragione principale della rivoluzione che ha introdotto nello yoga? Sì, diciamo che da una parte il pensiero di Yogananda abbraccia anche ad esempio il pensiero cristiano per certi versi, per cui da quel punto di vista è riuscito forse ad espandere in America così come in altri paesi la disciplina dello yoga oltre quello che è il pensiero induista classico. Dall'altra parte è una tecnica, lui parla di una meditazione come forma quasi scientifica, in un certo senso di allargamento della coscienza, e dunque da quel punto di vista sono proprio delle tecniche di meditazione che sono state adottate da molte persone con risultati molto efficaci. Terenzio, la realtà yoga in Italia oggi? Credo che sia un fenomeno in sempre maggiore espansione, noi lo vediamo indirettamente dall'incredibile passaparola che sta avendo il film, nel senso che siamo partiti con alcune città, siamo adesso oltre a 50 città che proietteranno il film, soprattutto proprio sulla base di interessamento da parte del pubblico, che non solo fa passaparola ma alle volte trova persino i cinema in cui farlo proiettare. Senti Terenzio, questo documentario come nasce, come è venuto fuori? Innanzitutto è una coproduzione internazionale di Italia e Stati Uniti, nel senso che una delle due registe, Paola Di Florio, che tra l'altro è stata candidata all'Oscar, è italiana, anche se vive negli Stati Uniti. Ci sono stati oltre 3 anni di ricerca documentale, molta ricerca di materiale d'archivio degli anni 20 e 30 sulla vita di Yogananda, e poi tantissime interviste in giro per il mondo, da personaggi che sono leader nel mondo del rap a scienziati, a filosofi che commentano quello che è il pensiero di Yogananda. Senti, che tipo di distribuzione avete optato per questo documentario? Abbiamo deciso di fare una distribuzione ad evento il 16 e il 17 di febbraio principalmente, anche se ci potranno essere delle proiezioni magari anche in seguito, fondamentalmente concentrandolo per avere anche la possibilità di uscire in più sale, nel senso che a Roma saremo al Cinema Caravaggio, dove abbiamo un'anteprima stasera anche con l'ambasciatore indiano, e poi al Farnese, al Cine de Tour, all'Apollo 11, e siamo presenti anche a Trevignano Romano e a Viterbo. L'idea è quella di concentrare il pubblico in 2 date, in modo da avere, si spera, un buon riscontro per farlo poi diffondere anche nel resto d'Italia. Senti, per chi ci ascolta, raccontiamo anche un po' la realtà Cineama. Sì, Cineama è una realtà giovane che appunto cerca dei film con tematiche molto specifiche e lavora molto sul web, sulla promozione, per cui abbiamo distribuito dei film innovativi come Io sto con la sposa, che è stato un film autoprodotto finanziato dalla rete, che ha avuto un grande successo l'anno scorso, 6 vie per Santiago, che è un film che racconta le traversie di 6 pellegrini che viaggiano sul cammino di Santiago, che non è un film religioso per sé, ma che ha delle tematiche anche queste molto spirituali, e fondamentalmente ci basiamo molto su il contributo e la condivisione da parte del pubblico, non facendo pubblicità classiche parapedonali piuttosto che poster. Andiamo direttamente a contattare quello che è il pubblico che può essere interessato a una data tematica, in questo caso tutti quelli che sono interessati da una parte a meditazione, yoga, benessere, eccetera, ma tra l'altro voglio anche dirlo, scegliamo sempre dei film che a prescindere dalla tematica devono essere molto belli, e questo è un film davvero molto bello e anche molto avvincente, perché Yogananda ha avuto anche una vita molto piena di traversie e di avvenimenti interessanti. Ad esempio, è stato a un certo punto indagato dall'FBI e volevano espellerlo dagli Stati Uniti perché stava avendo un'influenza troppo importante. Terenzio, i riferimenti internet sono un sito immagino un sito e una pagina Facebook per quanto riguarda la vostra realtà? Sì, il sito è www.cineama.it, e però abbiamo su questo film in particolare, Il Sentiero della Felicità, una pagina Facebook molto molto attiva, su cui abbiamo appunto creato tutta una serie di eventi per le varie proiezioni, e per cui chi è interessato al film dovrebbe rivolgersi sulla pagina Facebook Il Sentiero della Felicità Film. Benissimo. Terenzio, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, arrivederci a tutti, buongiorno. Ciao. Terenzio Cugia di Cineama sulla distribuzione del film, del documentario Il Sentiero della Felicità, in uscita in sala il prossimo martedì 16 febbraio. Ora abbiamo un contributo registrato per un altro film in uscita. Abbiamo Alberto Valtellina di Lab 80 Film per parlarci della distribuzione del film Moses, il pesce e la colomba, in uscita in sala oggi giovedì 11 febbraio. Alberto, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, parliamo un po' di questo film, per chi ci ascolta, di cosa si tratta? È un film che intanto è il vincitore di Bergamo Film Meeting del 2015, ha vinto per acclamazione. Bergamo Film Meeting è un premio che è dato solo dal pubblico, ha vinto stracciando gli altri. È piaciuto molto a una vivacità d'impianto che lo rende particolarmente interessante. Allora, raccontiamo anche brevemente per sommi capi la trama di questo film? Sì, la trama è estremamente semplice, è nella costruzione la cosa che lo rende così. È la storia di un ragazzo, di un ventenne che ha un rapporto molto antagonistico con il padre. Il padre muore, invece che risolversi, il padre si mantiene in quanto fantasma, quindi è un fantasma che dapprima è spaesato e poi sempre più ridiventa il padre angosciante che era quando era in vita. Quindi il figlio, da lì parte il plot, il figlio deve risolvere questa tensione che si ricrea con il padre. Quando a un certo punto riesce a chiudere quello che il padre aveva lasciato in sospeso in vita, c'è una sorta di accordo e il padre può volare via. Il titolo è in italiano, in originale era Afterlife, cioè in realtà Uto Elet in ungherese, quindi dopo la vita. Noi abbiamo scelto un titolo che è un po' che va incontro alla costruzione un po' surreale del film. Abbiamo scelto di chiamarlo Mozes, il pesce e la colomba. Il pesce, vabbè, è una figura acquatica che si mantiene per tutto il film, e la colomba in qualche modo rappresenta, se vogliamo buttarla sul metaforico, rappresenta, ma tale è l'anima del padre, che durante il funerale non vuole saperne, viene dovrebbe essere liberata dal prete, invece se ne va per terra, quindi il padre rimane, e solo alla fine del film la colomba, vediamo volare via la colomba. Virag Zomborak, non so come si pronunci, è una ragazza, Virag vuol dire fiore, ok. Ho già finito tutte le mie competenze in ungherese. Senti, di questa artista cosa conosciamo di altro? Conosciamo poco, perché è il suo primo film, una esordiente assoluta. La sceneggiatura del film aveva vinto la competizione a Cannes tra le competizioni tra le sceneggiature nel 2011, e ha una bella lista di festival alle spalle, e quindi abbiamo deciso di fare questo passaggio. Quello che stiamo cercando di fare con la Bottanta è quello di fare un passaggio tra i festival e le sale, quindi imporre dei piccoli film che hanno delle qualità, secondo noi, anche per la promozione, per l'uscita in sala, e questo film assolutamente è in linea con il catalogo che stiamo cercando di ampliare, anzi che stiamo ampliando fin troppo in realtà, perché poi si tratta di seguire poi tutti i film nella maniera adeguata. Ecco, dicevi della sceneggiatura a Cannes 2011, è stato lì l'incontro con la regista? No, lì è semplicemente partito il percorso internazionale del film. Okay. A Cannes è stata presentata la sceneggiatura, con calma hanno trovato soldi. È un film che è nato, l'uscita del film alla fine il primo festival è stato credo alla fine del 2014 a Bergamo in Italia, ha avuto la sua premiere Bergamo Film Meeting l'anno scorso, e di conseguenza poi come al solito c'è il percorso che porta alle sale. Che arriva, e ci siamo arrivati dopodomani a Roma al Piccolo Apollo, con cui abbiamo cominciato una piccola collaborazione, questo piccolo cinema gestito con grande passione. Sì, sì, lo seguiamo attentamente. Senti Alberto, per chi ci ascolta e non conosce l'esperienza La Bottanta, qual è la vostra politica distributiva? Ma La Bottanta esiste dal 1976, è nata proprio per quello che stiamo facendo adesso, per favorire l'uscita in sala di film che già nel 76 non c'erano i DVD, non c'erano neanche i VHS. ai tempi era un bisogno forte, ma ci rendiamo conto che anche oggi è vero che si possono vedere online i film, si possono vedere i DVD, però l'esperienza nella sala cinematografica rimane centrale per quel che riguarda la proposta del cinema. Io mi rendo conto che i ragazzi che hanno la possibilità di vedere tutti i film che vogliono, mia figlia stava guardando, anzi non si può dire, mia figlia non stava guardando un film in streaming ieri vanno ancora al cinema, vanno ancora in sala, e noi cerchiamo di favorire anche la varietà nella proposta cinematografica. Esiste una proposta cinematografica forte, una proposta cinematografica diciamo così commerciale, ma non solo, ma anche di qualità alta, industriale, che nasce con dei grossi fondi alle spalle. Ci sono dei film più piccoli come il nostro Moses, più piccoli ma che meritano di andare in sala, e noi cerchiamo di lavorare su quelli, cercando anche di ampliare il catalogo. È il www.labotanta.it per chi ha voglia di darci un'occhiata. Ecco, si tratta di una novità insolita, perché specialmente non solo i film europei in generale, ma della parte est dell'Europa è veramente difficile trovarli poi in sala da noi. Sì, ci siamo messi a nuotare controcorrente, la corrente è abbastanza forte, e non so se siamo abbastanza forti per nuotare controcorrente, però in realtà c'è un tentativo di uscire appunto dai binari soliti per ampliare il ventaglio della proposizione, della proposta cinematografica in sala. È necessario, secondo me, perché è anche bello che il pubblico, che la persona che esce e che voglia andare al cinema, si possa trovare davanti un ventaglio. Si dice che ci sono tanti film e poche sale. Secondo me il problema non si risolve facendo meno film, si risolve ampliando, costruendo sale. E io mi rendo conto che ci sono, adesso io ho iniziato a lavorare sulla distribuzione dall'anno scorso, in realtà a tempo pieno, e mi sono reso conto che ci sono degli esercenti che stanno aprendo sale, ci sono degli appassionati dei 30-40 anni che hanno voglia di ripartire, di far ripartire anche il cinema in sala. Posso citare diverse esperienze positive, e positive anche dal punto di vista commerciale. Questo è interessante. Alberto, ci dicevi di Roma, dell'Apollo 11, ecco, quali saranno le modalità di uscita a livello più generale, in quante sale sarà pressa poco? Ma guarda, adesso esce dopodomani, e di confermati abbiamo una decina di uscite. Okay. Però ci siamo resi conto che sul nostro catalogo le uscite diciamo si stemperano. Abbiamo fatto uscire il film di Lee Bullman a novembre, Miss Julie è uscito a novembre, e abbiamo ancora delle proiezioni a luglio, cioè fino a luglio di quest'anno, per cui cerchiamo appunto di ampliare il catalogo e di dare anche la giusta vita a questi film che non si scoppiano in 15 giorni, insomma. Non siamo quelli che guardano il primo weekend al botteghino, anzi stiamo ben attenti a non guardare il botteghino del weekend per mantenerci di buon umore. Alberto, i riferimenti ce li hai dati, anche internet. Io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao. Bene, questo era Alberto Valtellina di Lab 80 Film per l'uscita in sala oggi, giovedì 11 febbraio, del film Moses, Il pesce e la colomba. Con questo finiamo la puntata settimanale di Visionari di questo giovedì 11 febbraio del 2016. I riferimenti sono sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari sulla pagina, sulla colonna centrale dell'home page, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming sull'home page del sito, c'è Ascolta la diretta. È tutto, ci sentiamo giovedì della prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15.